se passasse questa sera accanto a noi Gesù Cristo, col suo volto maestoso. Quella donna si accorse a un certo momento che il sangue usciva dai polsi di quell'ospite e scendeva dalla nuca, dalla testa, quel sangue. Capì allora che non era un uomo qualsiasi, un disonesto, uno dei tanti ai quali aveva spalancato l'uscio, quella prostituta, ma si accorse che quello era un superuomo, Cristo il Nazareno, e quello era il suo sangue. Donna, mi sei costata sangue, non peccare mai più. Questo fatto storico in questo momento si chiama metastorico, superstorico, cioè interessa a ciascuno di noi a distanza di tanto spazio da qui al Calvario e tanti secoli da qui a quel giorno, come se in questo momento sul Calvario Gesù dicesse a me e a voi: su, su da quel pantano, fuori da quelle spire, fuori da quei ceppi, fuori, fuori da questa dannazione, da questi peccati, su, sur sum corda, in alto i cuori, sur sum corda, in alto i cuori, su di coraggio, riprendi il cammino e sii perfetto. Santo, santo, come San Giuseppe, come lei, la Madonna, santo come Pietro, come Giovanni, come Giacomo, come Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Mattia, Stefano, Lorenzo, Antonio, Francesco, quanti, quanti, tutti sono costati sangue a Cristo. Quel sangue capace di fare di noi, da poveri diavoli, santi d'altare. Ma ditemi voi se questa non è la notizia più bella. Siamo chiamati a rendere il massimo con quei quattro stracci che abbiamo e che siamo. Dopo tanti peccati siamo abietti, eppure il Signore che non fa lo schifiltoso non si sente trattenuto dalle nostre piaghe e allontanato, anzi, le nostre piaghe lo attirano perché gli siamo costati sangue. E con questo sangue egli le nostre piaghe le può pulire, risanare tutte. Alferio, intercedi per noi, tu che a 72 anni ti sei convertito. Tu che pure avevi bisogno di questo bucato nel sangue di Cristo e poi sei campato fino ai 120 anni, e l'ultimo di questi tuoi giorni è stato il giovedì santo, il giovedì in cui si transustanzia il vino in sangue di Cristo, risurrezione e vita. Simpatico questo Alferio. E a me piace tanto anche Matteo Talbò, l'ubriacone, che passa dalle bettole alle altezze più alte. Che miracolo è mai questo? Moltiplicare il pane, moltiplicare il pesce per 5.000 persone, senza contare le donne e i bambini? O è un grande miracolo, certo? Calmare le onde di un lago in tempesta, in piena notte, al buio, è un grande miracolo, ma il miracolo più grande è quello della conversione delle nostre anime, sicché passiamo da una vita grama e miserevole ad una vita pura, santa, degna di Dio.